Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, grazie per essere con noi. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, e c'è lui, il nostro ospite del venerdì. Ve lo dico subito perché è inutile presentarlo dopo il sommario. Ci saluti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati dal dottor Confalonieri. E allora ci siamo davvero tutti, 824 0024, quando c'è il dottor Confalonieri sapete che parliamo di attività fisica. Messaggi al 349 238 6666, il nostro sommario. Sport a misura di donna. Radiografie troppe e spesso inutili. Leucemia, una nuova speranza. Trapianto da genitori a figli. Al cuore piace la moderazione. Dottor Confalonieri, questa settimana abbiamo dedicato tante puntate alle donne, in occasione della festa della donna, ma noi lo facciamo regolarmente, e quindi oggi abbiamo pensato di coinvolgerla per parlare di attività fisica al femminile. Quindi, bellissimo. Le sue ammiratrici ormai ci scrivono, sono tante. Devo dire che lei all'inizio era un po' lento nel rispondere, adesso ha recuperato. Quindi. Grazie. Con tutti, non solo con le donne. Beh, rispondo anche agli uomini. Però forse dà una precedenza alle donne. E allora volevamo chiedere a lei dei consigli. Molte di noi fanno sport, alcune l'hanno iniziato a fare per magari dimagrire. Adesso stiamo proprio godendo dell'attività fisica per scaricare le tensioni, per provare quel benessere a cui lei spesso fa riferimento. Però magari ci sono dei piccoli incidenti di percorso, magari vogliamo potenziare le prestazioni, oppure ci sono tante donne che non riescono a inserire l'attività fisica nella loro giornata. Per tutte queste signore all'ascolto, 824 0024, vi lascio in compagnia del dottor Confalonieri. Dottore. Sì, diciamo che fino a un po' di tempo fa la motivazione quasi unica per cui le donne facevano sport era dimagrire. Direi che il 90% ti cercava e diceva: faccio sport perché voglio dimagrire, perché voglio piacermi di più. Quindi era uno sport puramente finalizzato alla corporeità da un punto di vista estetico. Adesso stanno aumentando donne che fanno sport con un'altra motivazione. C'è chi lo fa per stare insieme agli altri, per divertirsi, per crearsi un suo spazio, sì, che spesso la donna manca. Bravo, questa è una buona idea. Vado in palestra, non ci sono per nessuno. Esatto, è uno spazio che è soltanto per me, che mi regalo proprio, è un regalo che le donne si fanno. Ci sono sempre più donne che in questo hanno anticipato gli uomini, hanno fatto lo sport proprio alla ricerca di un benessere globale, quindi di un rilassamento, del superamento di certe tensioni, di certi dolori attraverso l'esercizio fisico ed un nuovo rapporto con il proprio corpo, e cominciano anche a esserci donne che fanno sport cercando una gratificazione di tipo agonistico e che quindi cominciano a farlo a livello amatoriale, nella corsa, nel nuoto, nel ciclismo, e che proprio trovano il godimento nel competere con se stesse o con gli altri. Quindi direi che l'universo è variegato e poi forse si differenzia un po' in funzione dell'età anche. E noi naturalmente terremo conto dell'età. Dottor Confalonieri non voleva proprio dirlo, ma noi siamo avanti, o no? L'ho accennato timidamente. Sì, però è questo che voleva dire, quindi 824 0024, se volete consigli oppure raccontarci quale attività fisica praticate e con quale giovamento, 349 238 6666. Una mela al giorno. Radiografie troppe, spesso inutili e anche non del tutto innocue. La notizia è apparsa sul New York Times ed è stata ripresa dalla stampa italiana. Martedì Repubblica ha dedicato un'intera pagina, che io vi consiglio di leggere con attenzione se ancora vi è possibile, e all'allarme radiografie noi dedichiamo l'approfondimento della settimana. In linea con noi, come sempre, il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Allora, professore, c'è un boom di prescrizioni radiologiche spesso inappropriate e anche in alcuni casi dannose. Sì, le prescrizioni radiologiche sono inappropriate e dannose, se ne fanno troppe di radiografie. 50 milioni di radiografie ogni anno in Italia, dove pare che siamo arrivati a 60 milioni, sono evidentemente troppe, lo può capire chiunque. Il 25% sono inutili, forse di più, forse sono inutili il 30 e il 50% secondo alcune analisi. L'articolo del New York Times è un articolo di Gina Colata, che è una dei due grandi reporter di medicina medicina del New York Times. Il titolo è molto bello: indipendentemente dalla qualità, TAC, risonanza magnetica, tutti questi esami sofisticati costano lo stesso e molti non si riescono a interpretare. Le cattive radiografie sono davvero il più grosso problema, perché quando uno fa una cattiva radiografia poi deve rifarla. E allora il referto successivo può contraddire il precedente e allora bisogna fare un altro esame radiologico ancora. Questa tecnologia è complicata, ci sono grandi variazioni nella sofisticazione delle macchine, tutti vogliono una macchina più sofisticata. Certe volte la cattiva qualità delle radiografie dipende dall'equipaggiamento, dal tipo di macchina, ma qualche volta dipende dal fatto che non sempre i medici radiologi sanno usare le macchine in modo appropriato. Noi abbiamo gli ospedali, tanti medici, tanti radiologi, invece dovremmo avere un po' meno medici e più ingegneri, più fisici, più persone che sanno ricavare dalla macchina il 100% di quello che la macchina può dare. Normalmente forse noi negli ambienti radiologici ricaviamo il 10% di quello che la macchina può dare. C'è una bellissima affermazione che io condivido totalmente in quell'articolo del New York Times: un buon radiologo certe volte può ricavare la diagnosi giusta da un esame di qualità non perfetta. Un buon radiologo con una qualità dell'esame non perfetta o con una macchina non buona può fare molto meglio che un cattivo radiologo con una grande macchina. Il problema non è la macchina, bisogna saperla usare e poi bisogna saperla interpretare. Dobbiamo investire di più sulla qualità. Io direi che, visto che l'Italia per la sanità spende poco rispetto agli altri paesi, noi abbiamo sempre avuto buoni argomenti per dire al governo: mettiamo a disposizione più fondi. Sì, sarebbe giusto, e questo è quello che vorrebbero le regioni, e le richieste sono fondate. Io però prima vorrei che noi ci chiedessimo cosa vogliamo dal Servizio Sanitario Nazionale: cure o buone cure? L'esito di certi esami, per esempio un attacco o un'ecografia, dipende in modo assoluto dalle capacità dell'operatore. Un esame fatto dalla persona sbagliata genera spese inutili, servono altri esami. Tante volte da esami fatti male vengono dei danni anche gravi, perché poi si fa un intervento chirurgico, per esempio, per una malattia che non doveva essere trattata chirurgicamente. Allora la mia domanda, che voglio lasciarvi con questa domanda, è: il servizio sanitario deve pagare per quello che si fa o per quello che serve agli ammalati? Allora la soluzione per me potrebbe essere pensare anche per l'Italia a quel budget complessivo di ospedale, come c'è in Olanda per esempio, che non è fatto di entrate e di uscite, ma è fatto di obiettivi e di risultati, a cui naturalmente bisogna attribuire un valore economico, ma che tenga conto del fatto che il servizio sanitario si deve far carico di tutto quello per cui ci sono prove di efficacia, ma solo di quello. Per il mal di schiena quasi mai serve fare una radiografia, per esempio. Se le regioni rimborsassero agli ospedali solo le buone cure, noi oggi spendiamo 100 miliardi di euro in un anno, ecco, questi per la sanità basterebbero se fossero orientati a buone cure. Professor Remuzzi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, alla prossima. Grazie. Pronto soccorso. E adesso è tempo di mettere al lavoro il dottor Franco Confalonieri. Dottor Confalonieri, allora, attività fisica al femminile. Abbiamo detto che la selezioneremo anche in base all'età. Sì, perché probabilmente ci sono motivazioni e quindi attività che si correlano più direttamente alle diverse età della donna, quindi quelle tipicamente adolescenziali, quelle legate all'età giovanile o all'inizio dell'avventura familiare, e quelle più legate invece all'età più evoluta, se non addirittura all'età anziana. Io però vorrei mettere al lavoro anche ulteriormente i nostri ascoltatori, li inviterei proprio a scriverci o a telefonarci raccontandoci la loro esperienza di sport al femminile e soprattutto: avete avuto difficoltà nella vostra scelta di cominciare a fare sport, a fare attività fisica, e queste difficoltà sono state più legate a voi come persona o all'ambiente nel quale avete cominciato a fare sport, alle persone con le quali avete cominciato ad interagire? Vi aspettiamo. 800 24 0024 è il nostro numero verde per intervenire in trasmissione, i messaggi al 349 238 6666. E direi allora, dottor Confalonieri, di partire dalle ragazze. Pensando alle ragazze, si pensa alla pallavolo, che è lo sport di gran lunga più diffuso nell'universo femminile. Ci sono tante ragioni? Direi che è il contraltare del calcio a livello femminile, lo sport da cui passano quasi tutti, o a livello scolastico o a livello agonistico, e quindi è di gran lunga l'esperienza sportiva delle nostre adolescenti. Poi per qualcuno diventa un'esperienza agonistica di altissimo livello, per qualcun altro finisce. E infatti un'esperienza di grandissimo livello e l'ha avuta Maurizio Cacciatori, che è in linea con noi. Ciao Maurizia! Sì, buongiorno a tutti. Ecco, allora, senti Maurizia, noi oggi anche nel corso della trasmissione avremo diverse testimonial di attività fisiche e sportive, e come potevamo non pensare a te parlando di pallavolo. Per le ragazze ai tempi del liceo si gioca a pallavolo, è semplice, si gioca nella palestra della scuola, è un modo di stare con le ragazze, di socializzare, di creare il gruppo. Poi, gradatamente, da questa buona abitudine ci si abbandona, ma stando nelle adolescenti, perché all'ascolto abbiamo tante mamme, quali vantaggi per una dà la pallavolo? Ma guarda, io posso parlare ovviamente della mia esperienza a livello personale. Io ero una bambina estremamente timida, quindi la mia mamma decise di farmi fare degli sport individuali, quindi iniziai a fare un po' di nuoto, poi un po' di ginnastica ritmica. Ero molto brava perché comunque credo di essere stata proprio dotata, perché ero molto snodata, non avevo paura, quindi tutti gli sport meno male mi piacevano. Però ero sempre molto chiusa, introversa, parlavo pochissimo, nonostante in casa avessi poi anche due fratelli, quindi sì, meno male, avevo modo comunque di socializzare con i miei fratelli. Quando iniziai a far parte proprio di una squadra di pallavolo, che era proprio il mio sogno, perché io poi ero una bambina che guardava i cartoni animati, la famosissima Mimì Ayuhara, che poi ha portato in campo tantissime campionesse, vedi? Anche tutt'oggi della pallavolo, iniziai ad aprirmi di più. Perché? Perché in una squadra hai modo appunto di socializzare molto di più, ti senti ti senti parte proprio di un gruppo, ti senti, devi parlare, certo, perché comunque non spesso le cose vanno bene, quindi il tuo allenatore ti chiede come mai le cose non vanno, quindi parlare con la tua compagna, magari ci sono delle compagnette che non ti stanno tanto simpatiche, però devi iniziare comunque ad aprirti, a relazionarti anche con loro, quindi è una scuola di vita incredibile. È una buona me. Palestra. Dottor Confalonieri, sicuramente lei vuole approfittare per fare una domanda a Maurizia? Sì, io sottolineerei due cose interessantissime che Maurizio ha detto. La prima è l'approccio estremamente intelligente allo sport dei genitori di Maurizia, che era una ragazzina timida, quindi probabilmente anche attraversato una fase di insicurezza tipica di quest'età, e ha cominciato con degli sport individuali nei quali ha trovato sicurezza nelle sue capacità, per poi confrontarsi in uno sport di squadra e quindi superare la sua timidezza. Questo è un consiglio, non so se Maurizio è d'accordo, che io darei un po' a tutti i genitori di fronte a quella fase critica che attraversano i bambini tra gli 8, 9 e i 10, 11 anni. Cosa dici? Assolutamente sì, perché io sono davvero cambiata tanto. Credo che veramente far parte poi di una squadra ti fai delle amicizie anche più profonde, perché tuttora io ho delle amiche magari di squadre di tantissimi anni fa, quindi insomma non riuscivo assolutamente a parlare se non a persone che comunque conoscevo, ero molto molto chiusa, e oggi devo riconoscere che grazie alla pallavolo, insomma, certo, tanta della mia timidezza se n'è andata. Maurizia, grazie. Allora, con i consigli di Maurizia Cacciatori potenziamo, no, sottolineiamo questo aspetto per le ragazze, soprattutto nella fase dell'adolescenza, lo sport di squadra, e noi come alle ragazze possiamo consegnare la pallavolo. Maurizia, grazie per essere stata con noi, ci sentiamo presto. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. Dottor Confalonieri, d'accordo? Assolutamente d'accordo, e spezziamo una lancia anche in favore della televisione, in questo caso dei cartoni animati giapponesi così vituperati, che come diceva Maurizia davvero hanno portato in palestra tantissime ragazze. Laura ci chiama da Latina, 824 0024. Buongiorno e benvenuta, Laura. Buongiorno, grazie a voi. Ci racconti, Laura? Allora, io ho 40 anni, sì? e mi è stata appena diagnosticata un'ernia iatale abbastanza, diciamo, seria. Sì. E quello che volevo chiedere è se una donna di 40 anni che non ha mai fatto sport, diciamo, a livelli ottimali, come chiamala così, può con questa ernia fare qualunque tipo di sport, non so, flessioni, piegamenti. Sì. Perché ecco, io adesso ho avuto, diciamo, un forte ingrassamento a seguito di un incidente stradale, però mi è stata diagnosticata anche questo. Ecco, quindi volevo sapere che tipo un di sport un po' per posso riprendere fare. Un po' il passo. Grazie, esatto. Laura. Grazie. Dottor Confalonieri. Beh, in questo caso, trattandosi da quanto raccontava Laura di un'ernia iatale importante, il mio consiglio sarebbe quello di ricercare il dimagramento attraverso la dieta più che attraverso l'esercizio fisico, anche perché comunque una dieta di un certo tipo favorisce anche il superamento della problematica dell'ernia iatale. E l'attività fisica dovrebbe essere comunque un'attività non particolarmente spinta, perché un'attività spinta può comportare un peggioramento della sintomatologia legata all'ernia iatale. Quindi andrei per gradi. Cominciamo con una dieta curata e un'attività fisica più dedicata alla tonificazione e al potenziamento, e poi cominceremo a fare anche attività di tipo aerobico più intense. Una bella passeggiata per iniziare. Quella va sicuramente sempre. Bene sempre. E invece io dalla passeggiata andrei di corsa, perché in linea con noi abbiamo Fiordaliso. Ciao Fiordaliso. Ciao, guarda, mi viene da ridere perché mi sono dimenticata che mi dovevi chiamare. Sì. E in questo momento sto correndo. Magnifico! E riesci anche a parlare. Sì, ma infatti questo è il trucco di fare la corsa che non fa male. Non so se il dottor Confalonieri è d'accordo. Riuscire a parlare mentre si corre. Senti, ma sono... mi piace, guarda, ma che alla tua età. Senti, tra l'altro il dottor Confalonieri, gli ho detto appunto che avremmo sentito Maurizio, avremmo sentito te, un tuo grande ammiratore, e riesci a correre e parlare contemporaneamente a Radio 24 alle donne che ci stanno, ecco, ascoltando, per parlare dei benefici della corsa. Dottor Confalonieri. Direi che ha detto una cosa fondamentale, perché io sono un medico, facciamo tanti test per stabilire le intensità della corsa, però al di là di tutti i test, l'indicazione che ancora si dà alla gran parte delle persone che si rivolgono a noi è: tieni come limite quello per cui riesci a parlare con una certa facilità con la persona con cui corri, o in questa casa con le persone, in questo caso con le persone con cui parli attraverso la radio. Quindi è un'indicazione importantissima per tutti questa data da Fiordaliso. Fiordaliso, intanto tu potresti aver approfittato, no, di questa piccola pausa per riprendere fiato, perché tu sei la nostra testimonial della corsa, quindi... Io sono la testimonial della corsa, addirittura è uscito anche un DVD? Sì. Mio, dove insegno alle donne che sono in menopausa a tenersi in forma attraverso la dieta e la ginnastica. Chiaramente se una è molto grassa la dieta deve andare dal suo dietologo, però per dimagrire quei 3-4 kg che sono un po' di più, insomma, che ci danno fastidio, l'importante... Oh, non sto facendo l'amore, sto correndo. L'importante è una dieta equilibrata, cioè quello cos'è che consiglio io? Alla mattina, che ne so, due fette biscottate con un po' di miele, a mezzogiorno. E anche il sempre. Dottor Confalonieri ci mette sempre la crostatina al mattino, a lui piace. Anche l'ho messa anch'io. Ecco. Cioè, poi questo DVD, insieme a me ci sono tre dottori che parlano, non sono io. Quindi, però io sono l'ascoltatrice, capisci? Senti, Fiordaliso, a proposito di menopausa, riportatene, avevamo una parola che dovrebbe essere proprio cambiata, modificata, ma voi la portate, portate uno spettacolo in teatro. Ne abbiamo già parlato con Marisa Laurito, adesso riprende questa tournée mercoledì 11 a Fiuggi, venerdì a Chiavari e poi un po' in giro per il nord Italia con proprio questo musical. Che fa paura questa parola menopausa, che non deve però far paura. Senti, senti Fiordaliso, dimmi, amore, allora ti lascio correre. Quanto corri al giorno e con che frequenza? Allora, perché sennò poi il dottor Confalonieri me lo chiede. Io corro 4 volte alla settimana, poi vado in palestra e faccio anche della pesistica con molto stretching. Sì. Questo è molto importante. Una cosa che faccio che è sbagliato, in questo momento lo sto facendo perché sto correndo lungo il Lungotevere, è correre sul duro, sul cemento. Sì. Infatti sono andata l'altro giorno da un dottore del piede che mi ha fatto una cosa apposta da mettere dentro le scarpe da ginnastica. Sai, perché, purtroppo non è che puoi trovare sempre il terreno giusto per correre. L'importante però è darsi, come si dice, una mossa, perché abbiamo visto che l'attività fisica, sempre regolare, oltre che a fare bene al nostro fisico, alla nostra salute, tira su anche l'umore. Una battuta del dottor Confalonieri e poi lasciamo Fiordaliso correre in pace. Dottor Confalonieri, prima dei mercati. Beh, ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato anche a integrare un'attività come la corsa con la palestra. 6 volte a settimana è davvero tanto, è quasi una professionista, però l'idea di fondo di integrare queste due attività l'attività è perfetta. E poi un altro consiglio, questo davvero da specialista: non corriamo sempre sullo stesso terreno. Se oggi siamo sul lungotevere, cioè sull'asfalto, magari domani cerchiamo uno sterrato o cerchiamo dell'erba, perché questo aiuta, riduce i rischi e favorisce anche l'intelligenza motoria e la capacità di correre bene. Fiordaliso, ti sentiamo alla prossima corsa. Dottore, allora posso laurearmi? È già laureata. Beh, grazie a Fiordaliso. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Grazie. Siamo tornati insieme come ogni venerdì, parliamo di attività fisica che oggi, proprio in occasione della festa della donna, decliniamo al femminile. In studio qui con me, come sempre, il dottor Franco Confalonieri. 800 24 0024 è il numero per intervenire in diretta. Ma c'è una bellissima notizia che voglio comunicarvi, è il frutto di uno studio tutto italiano di grandissimo rilievo che verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista internazionale Blood e apre prospettive che sembravano irrealizzabili sino ad oggi. Lo studio dà infatti una speranza di cura ai bambini colpiti da leucemia che non possono essere curati con la chemioterapia e che non trovano un donatore compatibile. La strada si chiama trapianto aploidentico, che significa identico a metà, e quello che ha come donatore uno dei genitori del bambino colpito da leucemia. Ma ci facciamo spiegare tutto dal professor Lorenzo Moretta, immunologo e direttore scientifico dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Professor Moretta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, sì, il nostro studio dimostra che un tipo di trapianto aploidentico da genitore riesce a curare circa il 75% di bambini leucemici, per i quali la chemioterapia ha fallito e per i quali non è stato possibile trovare in tempi utili un donatore. È un trapianto peraltro difficile, nel senso che è identico a metà, come ha ricordato lei, cioè nel senso che tutti noi ereditiamo dai genitori metà del nostro patrimonio genetico. E quindi anche gli antigeni di istocompatibilità. Quindi cosa succede? Che noi dobbiamo eliminare le cellule che causerebbero gravissimi danni mortali, cioè i linfociti T dal trapianto. Quindi noi in realtà quello che infondiamo in questo trapianto sono cellule staminali emopoietiche, cioè quelle che rigenerano tutte le cellule del sangue. Tra queste cellule rigenerano anche particolari cellule natural killer, che sono un po' la chiave di volta, perché sono proprio queste cellule che vanno a distruggere la leucemia residua. Quindi la novità dello studio è stata proprio quella di applicare a questo tipo di leucemia del bambino questo tipo di trapianto, che era già noto, però applicato solo all'adulto e a certi tipi di leucemia dell'adulto. Abbiamo ottenuto risultati ancora migliori rispetto a quelli dell'adulto. Abbiamo chiarito anche un po' il meccanismo, cioè abbiamo dimostrato che sono proprio le cellule natural killer, questi killer, diciamo, che responsabili, che abbiamo dimostrato, che abbiamo potuto selezionare, visto che abbiamo due possibili donatori, il genitore meglio che ha il numero maggiore di queste cellule natural killer in grado di uccidere la leucemia, quindi selezione del donatore più appropriato. Poi abbiamo potuto seguire la presenza di queste cellule anche nel piccolo paziente e dimostrare che in tutti quei casi in cui queste cellule rimanevano a livelli elevati praticamente guarivano dalla leucemia. E diciamo che la proiezione ci dice che circa il 75% di questi bambini sopravvivono, e ricordiamo che questi bambini sarebbero tutti morti, ecco, con la situazione attuale, ecco, senza questo tipo di intervento. Professor Moretta, parliamo anche dei tempi. Questa tecnica, abbiamo visto che cambia radicalmente, può rappresentare veramente la chance per un gruppo abbastanza numeroso di bambini. Per quanto riguarda i tempi, è già disponibile? La risposta è sì, cioè è finita, diciamo che è stata una fase, uno studio sperimentale multicentrico che ha richiesto esperienze diverse, ha collaborato il Gaslini, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, San Matteo di Pavia, l'Università. Peraltro adesso che la strada è aperta, il professor Locatelli, che è responsabile dell'equipe clinica del San Matteo, appunto ritiene che potrebbe essere il trattamento di prima scelta, cioè nell'ambito dei trapianti, senza aspettare di cercare un donatore compatibile, uno ha immediatamente disponibili i genitori, visto che i risultati sono così buoni, si sta valutando seriamente la possibilità di utilizzarlo non più come trattamento di frontiera, di ricerca, eccetera, ma proprio come prima scelta. Ecco. Grazie professor Moretta, complimenti, buona giornata. Grazie a lei, molto gentile, arrivederci. Dottor Confalonieri, una svolta, ma torniamo ad occuparci di noi, dell'attività fisica. Abbiamo tantissime telefonate. Lina da Milano, buongiorno, 800 24 0024, benvenuta. Lina? Sì, buongiorno. Eccoci, buongiorno, stava correndo anche lei come Fiordaliso? Parcheggiando. Bene, Lina, se vuole fare la sua domanda, il dottor Confalonieri è tutto suo. Sì, allora, io all'età di 17 anni sono stata operata di artrosi vertebrale. Sì. E io poi, vabbè, anche se il medico non era d'accordo, io ho sempre continuato a correre. Sì. E l'ho fatto fino a 6 anni fa. Poi 6 anni fa è successo che una vertebra, scusi un secondo che sono al telefono, una vertebra si è spostata, una vertebra lombare, mi schiaccia sul nervo sciatico, sì. Faccio sempre fisioterapia. La fisiatra mi ha detto che volendo potrei ricominciare a fare un po' di corsa. Correre 3 volte alla settimana a buon livello. Dottor Confalonieri, lei è d'accordo con la fisiatra che ha interpellato Lina? Sì, con molta attenzione. Direi che la corsa non è l'attività migliore e comunque se dovesse farla deve farla contemporaneamente alla fisioterapia e a un rafforzamento sistematico di tutta la muscolatura che sostiene la colonna. Silvia invece ci chiama da Varese. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Mi sente? Io benissimo, grazie. Grazie. Volevo chiedere, purtroppo causa un forte dimagrimento, sono dimagrita tanto nella parte alta del corpo, cioè schiena e spalle. Sì. Sono tonica nella parte bassa, cammino molto, è quello che mi piace fare. Non mi piace un granché andare in palestra, i pesi. E la mia dottoressa, vedendomi, guardando, le dico, se ha presente Benigni, io sono così, cioè sono magra magra sotto e se mangio un po' di più c'è un po' di pancetta. Allora niente, il medico Silvia, mi ha dato... però lei è troppo simpatica. Che cosa le ha detto il medico? Che purtroppo anche se faccio pesi si noterà il muscolo, ma non tanta più di carne, non tanta. Ecco, quindi mi ha dato un integratore di aminoacidi, vitamine B1 e B6. Mi domando cosa posso fare, visto che la palestra poi è caldissima, non ci voglio andare, preferisco un'attività all'aria aperta, però devo potenziare la parte alta. Devo mettere su chili sulle spalle. Bene, allora così consiglia Silvia, dà anche un consiglio a Benigni, due piccioni con una fava, dottor Confalonieri. Sì, direi che il problema di Silvia è un problema molto comune, il grasso si distribuisce secondo le caratteristiche individuali, quindi lei l'ha perso soprattutto sopra. Il mio consiglio è vogatore d'inverno e barca d'estate, è un'attività molto piacevole, potenzia in modo selettivo la parte superiore e continui con l'integrazione a base di aminoacidi che le è stata consigliata, perché nel suo caso è fondamentale. Andiamo a Vicenza, anzi nella provincia di Vicenza, dove ci aspetta Rita. Rita, buongiorno. Buongiorno, io avrei bisogno di un consiglio. Io ho una scoliosi da tanti anni, che ho cercato di fare ginnastica, cose varie per mantenere un po' ferma. E poi ho avuto problemi grossi al nervo sciatico, che mi sono durati tanto, con dei dolori forti. Ho rimediato con la antalgica in piscina. Sì. E ho provato dei risultati, però non come dicevo io. Ho iniziato da 6 mesi ad alternare una lezione di antalgica e una di Pilates. Va meglio? Sembra vada meglio. Cosa dice il medico? È la cosa giusta da fare o devo privilegiare assolutamente la piscina? Grazie Rita della bella domanda. Un'alternanza, Rita, sta meglio. Va assolutamente bene. Diciamo che in piscina c'è un lavoro di rafforzamento muscolare in scarico, quindi sostiene la schiena senza sovraccaricarla. Il Pilates con un allungamento e un'attività muscolare di tipo eccentrico, se fatto con intelligenza, è ugualmente utile. Quindi direi di continuare su questa strada, è una scelta che condivido in pieno. E noi abbiamo la nostra prossima testimonial in linea con noi. Abbiamo la professoressa Graziottin, ginecologa, direttore del centro di ginecologia medica all'ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Oggi in una veste diversa, nella veste di sportiva. Io so che lei balla al tango, ma... Sì, faccio moltissimo sport fin da ragazza, fin da bambina, devo dire, grazie a una famiglia che aveva capito che essendo una bambina ad alta energia era giusto per il mio equilibrio, per la mia salute, per la mia gioia di vivere, che io praticassi quotidianamente dello sport. Quindi in maniera abbastanza eclettica, dall'atletica allo sci, all'equitazione che mi piace moltissimo, al tennis, e tuttora tutti i giorni cerco di fare almeno il jogging o la cyclette se proprio diluvia, eccetera, eccetera, poi 2-3 volte alla settimana equitazione, che mi piace da morire, più il tango 2 ore alla settimana, perché naturalmente riequilibra tutto il mio impegno, tutto il resto del lavoro, la vita, pazienti, casi difficili, eccetera, e io trovo che questo mantiene la gioia di vivere, l'energia vitale ottimale e questo slancio, questo gusto di stare al mondo che è fondamentale. Io approfitto di lei, professoressa Graziottin, che ho utilizzato qua come testimonial del ballo, che può essere un'ottima alternativa a chi magari non ama andare in palestra, a chi vuole riscoprire anche un po' il piacere della musica, vuole muoversi ma nello stesso tempo ha timore di fare troppa fatica, per girarle subito un sms che è arrivato, devo dire, a inizio puntata, ma che io ho tenuto da parte. Sport e ciclo mestruale, come gestirlo? Con le mestruazioni non riesco a fare niente, quando passano ho perso l'allenamento. Allora, ha ragione, e questo è un consiglio da dare da, come ginecologa, a tutte le giovani donne in ascolto, in particolare a quelle che hanno mestruazioni abbondanti, mestruazioni dolorose o una sindrome premestruale o perimestruale importante. Per tutte loro è arrivata questa pillola aldrospirenone, che si assume per 28 giorni, 24 sono giorni attivi, 4 placebo, che ha il vantaggio di ridurre significativamente la quantità del flusso, quindi praticamente in quei giorni manco ce ne accorgiamo. Il dolore scompare o si attenua marcatamente ed è stata addirittura approvata anche negli Stati Uniti per la cura della sindrome premestruale. In questo modo possiamo fare sport 365 giorni all'anno, giustamente non perdere l'allenamento, per le ragazze che fanno agonismo è importantissimo non perdere una settimana, certo, di allenamenti o doverli ridurre, perché altrimenti si perde la competitività. Ricordo che il 70% delle ragazze che facevano sport da bambino, anche agonistico, lo abbandonano tra i 14 e i 19 anni, proprio, e la causa principale è proprio la mestruazione, con tutti i sintomi e naturalmente la deprivazione di allenamento che comporta. Quindi vediamo queste pillole, in particolare quest'ultima uscita aldrospirenone, che conosciamo già da anni, non funziona benissimo, ma che con questo regime allungato consente veramente di riappacificarci col nostro ciclo mestruale, di volergli bene come segno di femminilità, ma nello stesso tempo di averlo come sintomo di accompagnamento e non come una, a qualche modo, una limitazione della nostra femminilità, della nostra gioia di vivere anche nello sport. Professoressa Graziottin, io spero di sentirla presto, di averla qua presto in studio. Intanto la saluto, buona giornata, grazie, buona giornata per essere stata con noi. Buon sport a tutte le ascoltatrici. Grazie. Eccoci, Elisa da Brescia, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda al professore. Gliela faccia una un po' cattiva, guardi. Grazie. Allora, praticamente io ho 29 anni, fino a 20 anni ho sempre fatto tanto, tanto sport, soprattutto pallavolo, di cui ero innamorata, persa. Ho dovuto smettere per 8 anni motivi lavorativi, adesso ho ripreso da un annetto, più o meno faccio 5 ore più o meno di yoga e pilates in palestra. Mi piace veramente tanto, proprio sto scoprendo una passione. Perché Elisa lei lo consiglia? Le piace molto perché? Il pilates ad esempio? A me piace soprattutto la yoga più che pilates. Pilates anche, però yoga è una cosa proprio che rilassa anche mentalmente molto, perché ci vuole un sacco di concentrazione, quindi fa staccare completamente da quella che è la giornata magari pesante lavorativa. Sì, da altri, quindi Elisa è soddisfatta molto, anche perché i muscoli mi sembra che lavorino veramente, ecco, tanto tutti lavorano. Volevo sapere però se una cosa abbastanza completa o se è necessario aggiungere qualcos'altro, perché il problema è il tempo. Allora, io prima di dare la risposta, dottor Confalonieri, vorrei salutare Giovanna Rossi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Lei è l'ultima nostra testimonial, lei è un'attrice di teatro, attualmente nei teatri italiani con Teatro Comico, un testo di Goldoni per il Teatro Stabile di Bolzano. Anche lei amante dello yoga. Quindi anche, allora, a Elisa rispondono due esperti, il dottor Confalonieri, Giovanna Rossi. Dottor Confalonieri, vada lei. Ma sì, Elisa ci ha chiesto se è completo. Direi che l'abbinamento dello yoga col pilates forse non è l'abbinamento ideale, perché almeno in parte queste due attività si richiamano. Quindi se Elisa ha bisogno di esprimere energia da una parte e soprattutto di consumare un po' di più, di allenare anche il suo sistema cardiovascolare un po' di più, sarebbe meglio abbinare lo yoga, in questo caso che lei ama molto, con un'attività tipo la corsa, tipo il ciclismo, tipo il nuoto, tipo il trekking, comunque attività di questo tipo che impegnano l'organismo in un modo completamente diverso, anche se poi la regola di fondo è seguire il nostro istinto e ciò che ci piace di più. Giovanna Rossi, lei cosa fa? Allora, la nostra attrice, non l'ho mai fatto, però da un po' di anni faccio yoga e anch'io mi sento assolutamente di consigliarlo, non solo a Elisa ma a tutte le donne in ascolto, perché è una disciplina che oltre a far bene al corpo fa molto bene alla mente, rilassa, aiuta a dominare l'ansia, lo stress della vita quotidiana, insomma da quella sensazione di benessere che io raramente ho provato al termine di un'attività, chiamiamola fisica, e che uno poi si porta dietro anche nel resto della giornata. Poi tra l'altro il vantaggio dello yoga è che fatto un po' di lezioni, di anni, uno lo può fare anche da solo. Io quando sono in tournée, esatto, in teatro, nella camera d'albergo, le posizioni, la respirazione, io ho trovato un giovamento veramente grande facendo yoga e credo che sia una disciplina adatta a tutte le età, a tutte le tipologie di per cui, visto che ci sono tante donne in ascolto, dico provate, ho convinto la mia mamma a fare yoga. Dottor Confalonieri, un commento? Sì, direi che l'ha lasciata senza parole, perché sentire questa voce così, esatto, bella, esatto, perché ero innamorato della voce. Devo farle così, sa come mi riporta la realtà. No, direi di sì, direi che anche l'indicazione estremamente interessante che abbiamo ricevuto da questa testimonianza è la possibilità, una volta appresa la tecnica, di fare questa cosa per proprio conto, perché poi spesso ciò che allontana tutti, ma le donne in particolare, che hanno una vita sovraccarica, spesso di impegni da mantenere, è l'impossibilità di inserire lo sport nell'organizzazione della propria giornata. Quindi fra i criteri di scelta ricordatevi anche di considerare la possibilità di fare l'attività che avete scelto in modo comodo, in modo pratico, in modo ben correlato con l'organizzazione della vostra giornata. Questa è una garanzia di poterla portare avanti a lungo, quindi direi che questo è un consiglio sicuramente importante. Allora ringrazio Giovanna Rossi, il ricordo in giro per i teatri italiani con Teatro Comico, questo testo di Goldoni per il Teatro Stabile di Bolzano. Grazie, buona tournée, buona yoga. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, buona giornata. Adesso noi abbiamo, dottor Confalonieri, un avviso importante. In parte noi l'avevamo già anticipato nella giornata che abbiamo dedicato interamente come tema alla sclerosi multipla. Abbiamo detto che ci sono importanti novità, ma il 7 e l'8 marzo, quindi questa fine settimana, in occasione della festa della donna, torna la vendita di gardenie proposta proprio dall'AISM per sostenere la ricerca, per vincere la sclerosi multipla e soprattutto aiutare le persone colpite da questa malattia. In 3.000 piazze italiane si svolgerà l'iniziativa Gardenia dell'AISM. Per avere maggiori informazioni c'è il sito aism.it, oppure potete chiamare un numero verde che è 880 30 28. Se non avete da scrivere non vi preoccupate, perché sulla pagina di Essere Benessere trovate tutto. Dottor Confalonieri, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Senz'altro. È stato magnifico, devo dire. Bravo, bravo, bravo. Si vede che con tutte queste donne meravigliose che mi hanno circondato ho trovato un minimo di ispirazione. Allora ci vediamo venerdì prossimo. E in chiusura voglio salutare il cavaliere del nostro cuore che per tutta questa settimana ci ha accompagnato per descriverci le differenze tra il nostro cuore, il cuore di noi donne, e quello degli uomini. Ha sottolineato i fattori protettivi e quelli di rischio. Il dottor Carlo Gargiulo, buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai fedeli ascoltatori che sono stati con noi. Dottor Gargiulo, ci siamo dimenticati di parlare di alcol. La moda dell'happy hour impazza, è piacevole dopo il lavoro trovarsi con amiche e amici e sorseggiare qualche cosa di forte. Alcol e donne. Allora, le donne sono più predisposte ai danni dell'alcol, perché proprio per la loro caratteristica, anche qui ritorniamo sulla medicina di genere, sono diverse dagli uomini per fortuna, la loro caratteristica è quella di metabolizzare più lentamente l'alcol e quindi con più difficoltà. Allora, alle donne possiamo consigliare questo: se avete fatto l'happy hour, quindi sicuramente avete mangiato qualche stuzzichino ed insieme una bevanda che è leggermente alcolica, la sera niente alcol a cena. se non avete fatto il vostro happy hour, è consentito alle donne come agli uomini il mezzo bicchiere di vino di 200 ml, grosso modo, di vino rosso a pranzo e a cena. Sottolineo rosso perché il vino rosso contiene il resveratrolo, che è una sostanza antiossidante e che quindi aiuta il nostro cuore. Al di là di questo, tutto l'alcol al di fuori di questo è un alcol pericoloso che è bene evitare. Dottor Gargiulo, mi spiace, ma credo che a questo punto siamo arrivati al termine. Questo dispiace molto anche a me, ma non vuol dire che non ci rivedremo per altri appuntamenti. Ma certo, io l'aspetto sempre. Saluti di cuore allora, dottor Gargiulo, grazie, buona giornata. Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori. A presto. Noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo, mentre lunedì, come sempre dopo il GR delle 11, torna il nostro appuntamento con la salute e il benessere. Un saluto da Nicoletta Carbone.